Allora rieccoci qui, ritornati in diretta Radio Cooperativa. Buonasera e ben ritrovati su queste frequenze di Radio Cooperativa e con la seconda puntata di Rock Wave Live, io mi racconto. Allora, questa sera cosa si fa? Si parla ancora di musica. Voi sapete che noi alterneremo un po' a varie interviste, ma soprattutto ci occupiamo di musica. Allora, questa sera è una serata un po' particolare. Perché? Perché ho tanti ospiti. Ne ho 5 splendidi ragazzi, 2, 4, 6 splendidi ragazzi e più altre 2 persone che andrò a presentare tra poco. Allora, do il benvenuto prima di tutto al maestro, il grande maestro Dino Vighesso. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Poi al nostro pianista e compositore Riccardo Vighesso. Buonasera. La vocal coach Susanna Zanellato. Buonasera a tutti. Poi abbiamo la giovanissima Chiara Cipriotto. Buonasera. Ciao Chiara. Finalmente qui Giorgia Gozzi. Buonasera. Maria Elena Piovan. Buonasera. Mary Andreuzza. Buonasera. Ciao Mary. E Manuel Gabrieli. Ciao. Allora, vi ricordo una cosa importante, che potete interagire con noi, se volete fare qualche domanda anche ai nostri ospiti, tramite la nostra pagina Facebook che si chiama Rock Wave, ok? Con la CK e la W Rock Wave. Vi collegate in Facebook e lì magari scrivete i messaggi. C'è una finestrina, un piccolo bottoncino con scritto messaggi. Cliccate lì, scrivete e noi ve lo leggeremo. Poi potete ascoltare la nostra emittente in FM sui 92.7 oppure anche in streaming sul nostro sito di Radio Cooperativa, dove appare un bottoncino con scritto ascolta in streaming. Infine anche, se volete ascoltare dal cellulare, in TuneIn. Lì ci cliccate sopra come Radio Cooperativa e vi esce una lumachina verde. Cliccateci lì e poi quindi potete ascoltare tranquillamente la nostra radio. Allora, iniziamo, entriamo un po' nel vivo del nostro programma. Io, ragazzi, scusatemi, ma inizio con il grande maestro Dino Vighesso e ho un grandissimo piacere alzare il cursore per lui. Ciao Dino, benvenuto. Ciao allora. Gilles, tutto bene? Tutto bene, sì. Guarda, io sono solo felicissimo di avervi qui, ma soprattutto loro che... E questi giovani emergenti della musica italiana. Grazie, per noi è sempre un piacere essere qui. Allora, sì, e sono contento anche per quello che tu stai facendo in pratica per la musica, perché oltre alla tua accademia tu fai anche questo festival del Vola Voce, quest'anno giunto alla sua 8ª edizione, correggimi se sbaglio. No, è giusto, quest'anno giunta all'8ª edizione, partita un po' così per vedere... anche per integrare un po', per farci conoscere come accademia, perché eravamo appena aperti e siamo giunti all'8ª edizione, mi sembra ieri la prima, devo essere sincero, e ogni anno troviamo delle voci fantastiche e questa sera ce ne sono 2 presenti, Manuel e Giorgia, che hanno partecipato quest'anno, mentre Mary ha partecipato l'anno scorso e anche, mi sembra, la Chiara ha partecipato l'anno scorso, giusto Chiara? Sì. Quindi 4. Ecco, quindi bene o male tutte hanno a che fare col Vola Voce. Sì, in questo caso sì, perché Maria Elena, che invece è già allieva, non ha mai fatto il concorso. Dino, diciamo anche che tu hai un percorso un po' speciale alle tue spalle prima di attivare tutta questa tua attività. Tu vieni un po' dalla lirica. No, io vengo proprio dalla lirica perché ormai sono, penso, quasi 25 anni dal primo debutto, perciò è un bel po' di tempo. E invece lo studio ho cominciato ancora prima, quindi avevo 17-18. Ecco, allora quindi io... È un po' di tempo. Allora, io volevo farvi ascoltare un attimo perché si parla un po' di lirica, si parla di Dino Vighesso. Però volevo farvi anche ascoltare un attimo, tu mi permetti, una piccolissima parte di una tua... Se ho visto quello che vuoi mettere in onda, è un duetto, se non mi sbaglio, con una mia allieva, con Denise Cavalletto, e dove Riccardo ci accompagna, sì. E dovrebbe essere il concerto di un anno fa o due anni fa effettuato all'interno del Conservatorio di Vicenza, ecco. Che è La ci darei la mano, tratto dal Don Giovanni. Ecco. Allora ascoltiamoci un po' breve, un minuto. Un minuto. Non la facciamo ascoltare tutta perché dobbiamo dare spazio a tutti i giovani. Era tanto per dare l'idea dal tuo mondo, della lirica, che penso che tu ami tantissimo. Direi di sì. Era ed è stata ed è tuttora la mia vita, quindi il canto lirico al di là, vuol dire che insegnare a questi ragazzi è sempre un'emozione tutti i giorni, qualsiasi musica si tratti, quindi dal jazz al pop al blues al canto lirico e via dicendo. Susanna, presente. Vieni che ti devo chiedere alcune cose. Allora, siedi in braccio al maestro Dino Biesso. Che è un onore. Allora, la Susanna, vabbè, ci siamo qui. Conosciuti proprio in occasione di questi concorsi e siamo stati nel tavolo della giuria. Quest'estate, ecco. Quest'estate, allora, in diverse occasioni dopo. E lì è nata anche questa amicizia in ambito, cioè io dico sempre, sto vivendo un periodo straordinario perché sto conoscendo delle persone bellissime. Susanna rappresenta una di queste persone. Allora, Susanna è una vocal coach, dico bene? Sì. Ecco, allora, quando si sente vocal coach si ha l'idea che sia un insegnante di musica. È così o è un qualcosina di diverso, Susanna? No, secondo me la vocal coach è proprio un insegnante di canto. Fa parte proprio del canto, della voce. È un insegnamento che si deve dare ai ragazzi in una certa maniera. Secondo me, giusto, maestro Biesso? Giustissimo. Quindi non entra nel campo proprio di quello secondo che... Secondo me no. È una cosa diversa, ma allora tanto per capire, perché noi dobbiamo metterci dall'altra parte, sì. Dove le persone non sanno e noi dobbiamo spiegare un attimino. Sto schiacciando il maestro. Come la musica. Quindi praticamente un ragazzo o una ragazza viene da te e tu, cioè, come lo accompagni? Viene lì, non sa cantare proprio nella maniera giusta? Beh, intanto cominciamo a sentire se è intonato, prima di tutto. E poi piano piano lo facciamo crescere, insegnandogli un po' di esercizi, un po' di respirazione, un po' come si adoperano le corde vocali. Guarda come ti sta guardando Chiara. La Chiara mi sta guardando perché sa perché sa che io sono molto molto critica anche con lei in certi momenti, sì. Però diciamo che ci vogliono le giuste. Quindi dosi. È un supporto, diciamo, un supporto, sì. In più per migliorarsi, certo. Poi alla fine. Ecco, allora tu questa sera, Susanna, sei qui proprio perché accompagni la Chiara, no? Sì, la Chiara, sì. La Chiara, giovanissima, perché ha 11 anni. 11 anni. E sembra un po' più grande, però. Sì, in effetti quando l'ho vista, cioè, mi avevi detto è una bambina di 11 anni, sì, quando però l'ho vista. Sì, però è grande. È grande, sì. Allora, che mi racconti tu di Chiara? Dunque, Chiara è una ragazzina, intanto una ragazzina ben educata. È una brava ragazzina che si sta impegnando, almeno da quello che sto vedendo, da un anno e mezzo a questa parte si sta impegnando moltissimo e sta facendo dei grandi passi, veramente. Sta crescendo di giorno in giorno, io dico sempre così, no? Di lezione in lezione, e mi sta dando tante soddisfazioni, tantissime. Yeah. Infatti adesso il mese prossimo noi voleremo a Bucarest, perché lei ha vinto. Sì, dopo ne parleremo. Esatto. Delle domande che farò anche, ecco. A Chiara, sì. Mi dirà lei un po', esatto, te lo qual dirà è lei. Il suo prossimo percorso. Sì. Allora, visto che parliamo di Chiara, io vado da Chiara. Benissimo. Ciao Chiara. Ciao. Allora, diamo modo di conoscerti un attimino, quindi l'abbiamo detto prima, sì, l'età, sì, che hai 11 anni. Da dove vieni, Chiara? Da Piova di Sacco. Ecco, in provincia di Padova. Allora, tu, Chiara, nonostante la giovanissima età, comunque hai già un curriculum importante, perché hai fatto due manifestazioni, sì, importanti. Me ne vuoi parlare te? Ho fatto Castrocaro, che ho fatto praticamente una selezione di bambini, diciamo, dai 10, dai 6 ai 11, dagli 11 in su. Però purtroppo non sono passata in finale, però è stata una bella esperienza. Ritenterà, no? Oh, sicuramente che ritenterà, certo. E la seconda esperienza è stata Fiuggi, che è stato col Cantagiro. Stavo per andare in finale, ma... Però, che abbiamo, dai, fatto insomma, tappa lì a... Sì. Il Cantagiro, che abbiamo, siamo fatto tappa a Roma. Sì? Il Cantagiro abbiamo fatto tappa Campagnola, sì, di a Campagnola, sì, sì, sì. Insomma, mi è piaciuta questa esperienza. Hai portato il tuo inedito. Ho portato il mio inedito per la prima volta, sì. Che è quello che ascoltiamo, sì, tra poco, no? Allora, svegliamo questo inedito, cominciamo un po' ad entrarci un passettino alla volta verso la musica. Allora, come si chiama questa, come si intitola questa canzone? Impazzisco per te. Allora, raccontaci qualcosa di questa canzone. Allora, questo inedito parla di una ragazzina che si innamora di un ragazzo più grande e strada facendo racconta la sua storia, cosa prova per lui. Bene, allora, sei pronta a cantare? Sì. Allora, io ti alzo il cursore e ti mando la base. Tenete presente che quasi tutti in pratica questa sera canteranno in diretta su delle basi, ma canteranno in diretta. Quindi è capire un po' anche la bravura di questi ragazzi, perché non è facile sempre trovare la concentrazione e iniziare a cantare. Allora, io sono pronto, Chiara? Tu sei pronta? Sì. Ecco, allora, bravissima. Io vi dico, brava. È un incanto. Non so se sono più emozionato io di loro a vedermeli qui e cantare dal vivo. Susanna, anche cantare così non è facile. Non è, da seduti, Da seduti non è facile. Una canzone così con estensione di poi questo molto, genere. Molto alta, sì, di estensione. Veramente un'estensione. Io direi, Gil, così, veramente di bravissima, fare i complimenti a Chiara. Veramente grazie, brava. E fare i complimenti alla sua insegnante, certo, perché Susanna cura era particolare le voci. Guarda, guarda come la sta guardando con amore. Ci credo. Sì. Questa di chi è questa canzone, Susanna? Questa canzone, Chiara, lo dici tu di chi è? Allora, l'ha scritta la mia maestra Susanna. È composta dai suoi amici, due amici, Paolo e Daniele. E Daniele. Sì, l'ho scritta, il testo l'ho scritto io per lei, appositamente per lei. E un altro mio amico che è un grandissimo musicista, si chiama Paolo Materazzo, sì, e Daniele, che è un arrangiatore. Anche insieme abbiamo composto questa bella canzone, almeno spero sia piaciuta, sì, certo, soprattutto per lei. Saremo costretti a seguirti adesso, e quindi ogni tanto chiamarti e dire: Chiara, vieni che dobbiamo parlarti, vieni qui. Guarda, Chiara ha fatto veramente un bel salto di qualità da quando io l'ho sentita l'anno scorso a un altro concorso dove c'eri anche tu, Gil. Qual è? Che è il San Marco Festival. Ah, il San Marco Festival. Sono direttore artistico, sì. E ha fatto un grosso salto di qualità, l'ho sentita più volte quest'anno e soprattutto anche adesso con questo inedito. Ha fatto veramente un ottimo. È stata curata molto nei particolari e Susanna, torno a dire, c'è da fare i complimenti anche a lei perché cura molto bene questi aspetti. Quindi. E questo ringraziamento da Dino per me è veramente un ringraziamento così, grazie Dino, di cuore, veramente detto da te, grande, veramente un onore, grazie. Ecco, allora adesso passiamo un po', giriamo un po' pagina, ma poi ritorneremo, Chiara. Andiamo su a salutare e conoscere un po' Riccardo Vighesso. Ciao Gil. Ciao Riccardo, ciao e grazie. Pianista e compositore, dico bene? Sì, pianista e compositore. Sì. Pianista e compositore, quanti anni hai Riccardo? Allora, io ho 19 anni. Pensate un po'. E frequento il conservatorio ormai da una decina di anni. Ho fatto 8 anni di pianoforte, la scuola di pianoforte al Conservatorio Pedrollo di Vicenza, sotto la guida del maestro Luca Marra, e adesso invece mi sono spostato a Verona, al Conservatorio di Verona, con l'indirizzo di maestro collaboratore. Qui hai appena iniziato? Ho appena iniziato, sì. Quindi grandissima soddisfazione per te e anche per Riccardo, per tutte e due. Per Dino, scusa. Sì, sì. Per sì, tutte e due, no Dino? Seguendo la strada classica, per me è solamente un piacere, lo sai, no? Prima abbiamo parlato di canto lirico e questo spero lo porti a poter collaborare con diversi teatri sia in Italia che all'estero, perché alla fin fine il mestiere del maestro collaboratore è il braccio destro del direttore d'orchestra. Certo, quindi perciò, un ruolo fondamentale. Un ruolo fondamentale perché quando manca il direttore d'orchestra lui deve seguire tutto il resto. Allora, Riccardo, io volevo chiederti anche una cosa. Ci sono anche tanti ragazzi, anche qui stasera, tantissimi ragazzi che cantano, propongono le loro canzoni, ma si muovono in mezzo a mille difficoltà. Certo. Però, nonostante tutto, la passione li porta oltre a sognare e a sperare che è anche giusto che sia così. È così, è giusto, sì. Per il musicista, posso definirti anche musicista, sì? Va bene, è sempre complicato o è una strada aperta in più? Allora, è una strada molto complicata, devo dire, è una strada molto complicata perché al giorno d'oggi devi essere molto determinato e perseguire gli obiettivi che hai, se vuoi arrivare dove vuoi. Sia l'ambito classico sia l'ambito moderno, mi sono reso conto, è un ambiente molto competitivo. Devi essere sicuro delle scelte che fai, devi perseguire i tuoi obiettivi, solo così puoi arrivare dove vuoi. Certo, certo, quindi questo è un buon messaggio anche per loro, anche per i ragazzi, certo, che hai davanti, soprattutto per chi coltiva una passione. Certo. Allora, sì. C'è questa prima canzone che io ho sentito, che tu hai composto, che si chiama Blu, ed è una canzone importante. L'ha cantata una bravissima ragazza che si chiama Carol Magagna. Un'altra allieva. Dimmi. Un'altra allieva. Ecco, tanto per... ci passa tutto il mondo ormai per l'Accademia. Chi non passa da me non fa niente. E volevo appunto che prima di farla ascoltare, perché volevo farle ascoltare questa canzone, che mi parlassi un po' appunto di come è nata e il perché, perché certo, è veramente perché... particolare questa canzone. Allora, questa canzone l'ho scritta un paio di anni fa. Mi è arrivato un messaggio dal papà di una ragazza. Questa ragazza era praticamente una ciclista che correva nell'under donne a livello internazionale, che però purtroppo è venuta a mancare in una trasferta in Germania. Immediatamente dopo qualche mese il papà mi ha contattato attraverso altri contatti, insomma mi è arrivato questo invito di scrivere una canzone in onore a sua figlia. E allora questo papà mi ha inviato tutte le riflessioni, tutto il diario completo di sua figlia, che si chiama Chiara. Mm-hmm. Si chiamava Chiara. E da lì allora ho buttato giù il testo. Questa canzone, sì. Ho buttato giù il testo, poi è nato tutto subito perché mi sono fatto molto prendere sia dal testo e poi anche dalla musica. Quindi nel giro di una settimana era già pronta. Bene, benissimo. Allora io direi di far ascoltare questa canzone e poi torniamo in diretta. Si chiama Blu, è interpretata da Carol Magagna e composta da Riccardo Vighesso. Sapere quando pensiamo al blu, se è il colore che unisce due persone o un ricordo che non esiste più. Come facciamo noi a capire quando vediamo il blu, se è il colore di un mare in tempesta o il cielo calmo della sera. Io il blu e l'azzurro di una maglia li sento vivi sulla pelle come ali sulle spalle. Il blu è bellezza, non la verità. Nel blu io affronto le difficoltà, la forza, la gloria fino alla vittoria. Io corro senza mollare mai. Il blu è bellezza, non la verità. Nel blu io affronto le difficoltà, la forza, la gloria fino alla vittoria. Io corro senza mollare mai. Ho vissuto la mia vita colorando il mio destino guardando alle incertezze ma guardando al mio futuro. Ho creduto nella vita, ho creduto in me, nessun passo falso fino in fondo. Io blu e l'azzurro di una maglia li sento vivi sulla pelle come ali sulle spalle. Che bellezza, non la vedi. È bellezza, non la verità. Nel blu io affronto le difficoltà, la forza, la gloria fino alla vittoria. Io corro e non mollo mai. ecco qua, bellissima, bellissima, c'è poco da fare, una bellissima canzone. Ecco, scusami Gil, ti interrompo, non abbiamo spiegato il titolo però di questa canzone. Dimmi, vai. Questa canzone si intitolava Blu perché era il colore preferito di Chiara. E ci tenevo e ci ho tenuto molto a sottolineare, ecco, questo particolare, perché la descriveva molto. Lei indossava la maglia della nazionale azzurra e non a caso il suo colore preferito era l'azzurro, era il blu. Ecco, la salutiamo per quel che può, la salutiamo più che volentieri. Intanto ringrazio Dino che mi sta dando un validissimo aiuto in regia. Voi non lo vedete, ma mi sta aiutando. Allora, adesso a questo punto direi di passare un inedito importante, no? Allora, Maria Elena, eccoci qua. Buonasera. Età e da dove vieni? Ho 25 anni e vengo da Noventa Padovana, in provincia di Padova. Tu sei qua proprio per presentare questo inedito, no? Sì. Però prima vorremmo che tu ci raccontassi, visto che il programma si chiama Io mi racconto, ci raccontassi un po' di te. In ambito musicale parliamo, sì. Allora, un anno fa, io canto da sempre, da quando ero piccolina, e ho sempre fatto cover, e un anno fa avevo un sacco di cose scritte e ho deciso di mettere insieme, anche insieme a Riccardo, questa canzone. E il mio inedito si intitola Credo nell'amore, è una storia d'amore, e ho deciso di chiamarla così perché credo profondamente nell'amore, certo, e in questo sentimento. E Riccardo mi ha dato una grossa mano per la parte musicale, è stato lui a scrivere la musica e lo ringrazio tantissimo. E quest'anno mi sono autoprodotta un CD composto da 8 cover e il mio inedito, e l'ho chiamato Start perché appunto è l'inizio, spero sia l'inizio di un progetto, di tanti altri progetti più grandi nella musica, insomma, certo, nel mondo della musica. E come mai hai messo all'interno 8 cover? Sono in italiano intanto? Sì, ho deciso di farlo tutto in italiano. Bravissima. Perché ho pensato che il primo progetto sarebbe stato giusto farlo in italiano. Certo. E ho deciso di mettere le canzoni che sento più mie. Certo. Diciamo che però c'è anche un'altra persona forse che vi ha aiutato a un po', Lodovico. Per l'arrangiamento del brano è stato arrangiato appunto da Lodovico Saccol, e che ringraziamo tanto, insomma. Certo, Riccardo. Spero, Ricky. Sì. Sì, ci ha dato una grossissima mano. Quindi, Riccardo che ha scelto te che hai scelto Riccardo e Lodovico. Sì. Allora, c'è una storia dietro questo inedito. Perché Maria Elena era disperatamente in cerca di qualcuno che le scrivesse la musica per i suoi testi. Finché, dopo alcuni mesi che mi cercava così, mi sono reso disponibile. Diciamo così, perché ero impegnato con gli esami del liceo e conservatorio, insomma. Però appena ho avuto tempo mi sono messo un po' a leggere i suoi testi, erano più riflessioni all'inizio. Dopo è stato bello riunire tutti i pezzi e creare un bel testo. È stato divertente. Il risultato è quello che sentiremo. Certo, diciamo anche che la canzone, la vostra canzone, sarà trasmessa, perché io curo penso che andrà in onda la settimana prossima, una mezz'ora dedicato alla musica italiana, dove verrà trasmessa anche la canzone degli inediti o delle proprie canzoni di ragazzi che passano presso questa emittente. Quindi ci saranno alternate 2-3 canzoni dei big italiani, però inserita, come sarà nel caso di Maria Elena, dove presenteremo però anche il brano. Allora, Maria Elena, io direi di ascoltare, sei l'unica che questa sera non canta dal vivo, ma solo perché appunto c'è una canzone che è ben strutturata e tua, composta, quindi la facciamo ascoltare per intero. Buon ascolto. Okay? Maria. Grazie. Elena Piovan con la canzone Credo nell'amore. Dietro questo tempo statico, sole che splende dentro me. Ricordi su ricordi che si accarezzano, e quando sono sola penso a te. Penso che non tutto sia perduto. Tu dimmi che un giorno ci sarai e mi dirai quelle cose che da sempre sogno di ascoltare. Sai, sei quella persona accendere i sorrisi, quelli veri, quelli veri. Quando tutti chiederanno perché ci riproviamo ancora, non trovo la risposta giusta, sto ferma con le mani in tasca a guardare un'altra foto di noi due, perché mi manchi ancora. Sai, sei quella persona per cui io non credo più alle favole, non sto sopra le nuvole, io credo, credo nell'amore. Allora, poc'anzi abbiamo detto che questa canzone è fatta in pratica a sei mani, giusto? Sì. Allora con noi abbiamo al telefono chi in pratica ha contribuito a creare questa canzone. Ludovico? Sì, sono qui. Ciao, ciao Lodo. Ciao Lodo. Ciao ragazzi. Ecco, anche intanto tutti noi ti ringraziamo di essere qui con noi questa sera, anche se per poco, ma è importante un po' sentire anche la tua voce, anche per far capire alle persone quanto sia anche complicato creare alla fin fine una canzone, no Lodo? Beh, è un lavoro di gruppo, ma è anche secondo me la cosa più bella di quando si crea una canzone, nel senso che ad esempio quando lavoro con i bambini nelle scuole, che faccio spesso dei lavori sulla discografia, gli spiego come nasce un disco, gli dico sì, il cantante è quello che tutti vedono, tutti conoscono ed è giustamente quello che porta la canzone anche al successo, ma il bello è che dietro un cantante c'è sempre un gruppo di lavoro in cui ognuno mette il suo pezzettino e poi se un pezzo funziona è merito di tutti quanti, di tutti quelli che hanno messo il loro pezzettino in questo lavoro, per cui sono contento che il lavoro che abbiamo fatto e che avete appena sentito stia funzionando bene, perché vuol dire che tutti abbiamo funzionato bene in questo progetto. Certo, certo. Guarda, io ti dico che ho fatto un po' le prove, no? Non so se ti dicevo anche l'altra volta che metterò questo file di mezz'ora registrata di musica italiana, di cui inserisco queste canzoni di questi ragazzi di tanto in tanto. E ho ascoltato questo file per 3-4 volte per sentire un po' cosa andava, cosa non andava, ma la canzone di Maria Elena a un certo punto mi entrava in automatico tanto quanto le altre. Beh, questa è una gran cosa, perché riuscire ad entrare in un pezzo che non è conosciutissimo in una canzone, vuol dire che insomma si è lavorato per il versante giusto. Certo, la canzone era bella fin dall'inizio, e una canzone bella è bella anche tanto col pianoforte e la voce, e l'arrangiatore, in questo caso io, e ci mette soltanto un vestitino, ci mette, cerca di Lodo, prova a fare un qualche passo di lato, perché ci sentiamo a colpi. Ok, adesso mi senti meglio? Sì, sì. Benissimo. Sì, dico, il lavoro dell'arrangiatore è quello di saper cogliere l'essenza del pezzo e metterci quello che sente che manca senza rovinare il lavoro. Perché una canzone bella è bella anche solo col pianoforte, la voce. Proviamo a pensare a una canzone famosissima, non so, Yesterday dei Beatles, è bellissima anche soltanto pianoforte e voce. Sì. L'arrangiamento è importante, ma non fondamentale. In questo caso i due ragazzi mi hanno fatto sentire questo pezzo e io ho voluto dargli una mano per far sì che diventasse, che sbocciasse un pochino questo fiore che era appena sbocciato, e spero di esserci riuscito in qualche modo. Vedo che a loro poi è piaciuto, c'è sempre un po' il timore di rovinare con l'arrangiamento quello, certo, che è un'idea. Certo. Io con loro mi sono trovato bene a lavorare. Ma, oltretutto diciamo anche che ha vinto la categoria inediti al Vota le Voci, sì. E quindi sono belle soddisfazioni. Penso di sì, vuol dire che c'era anche una giuria fatta di 12 persone, giusto? 12 persone, c'eravamo in giuria, c'ero anch'io e anche la Susanna, e alla fine c'è, cioè, arrivata prima, vuol dire che tutti quanti abbiamo dato un parere positivo alla canzone di Maria Elena. Bene, bene, sono contentissimo, anche perché il bello di queste cose è che sono dei ragazzi giovani che stanno cominciando a lavorare in modo serio, e non è una cosa da poco, non è, certo, una cosa, va premiata secondo me. Certo, certo, e oltretutto ho detto una persona, possiamo anche dirlo, no Ludovico, tu fai arrangiamenti eccetera, ma in particolar modo ti occupi di bambini, non solo magari insegnando qualcosa dalle tue parti, ma ti occupi anche dello Zecchino d'Oro. Mi occupo anche del Zecchino d'Oro, sì, assolutamente, scrivo canzoni, ho partecipato a 5 edizioni, ne ho vinte 3 con i miei pezzi, ma è una forma di scommessa ormai sulle giovani generazioni, cerchi sempre di seminare sperando che qualcosa venga fuori di buono, e quindi così come con i bambini spero sempre di aver dato qualcosa che poi diventa qualcos'altro, anche con chi non è più bambino ma comunque si appresta, certo, ad affrontare il mercato della musica, come in questo caso, è sempre bello mettere a disposizione la propria esperienza anche con umiltà, secondo me, nel senso che il lavoro del musicista, il lavoro del cantante, il lavoro di chi crea parte sempre dall'ascolto di chi ha più esperienza, ma da una certa umiltà di base. C'è Dino che vuole chiederti una cosa, Lodo. Ciao Lodo. Dimmi Dino. Ciao Lodo. Ciao Dino. In effetti Lodovico è sempre molto modesto, no? Ma siccome stiamo lavorando a più inediti, io mi sono accorto che Lodovico è veramente un grande professionista, al di là che sviluppa e scrive canzoni, arrangia canzoni per lo Zecchino d'Oro, ma mi ha impressionato molto la sua versatilità nel sapere inserire cose particolari, suoni particolari, e vedere la luce dove magari c'era un po' d'ombra. Certo, no? Certo che sì. Veramente un grande, bisogna dirlo. Grazie. E non c'è via di scampo che gli altri pezzi noi ci vediamo già domenica mattina con un altro pezzo. Si lavora la domenica mattina, sì, okay. Ludovico fa i salti mortali per accontentare per accontentarci, diciamo, perché per accontentarci, perché gli altri giorni lui è super impegnato e anche noi non, certe volte non ce la facciamo, ma Ludovico è proprio un grande per questo. Se è mia, io l'ho sempre sentito con le troppo canzoni buona di Lo Zecchino d'Oro, ma una versatilità e una e un'intelligenza musicale che è paurosa. È lui che è modesto. No, no, grazie Dino, Dino, sei troppo buono. Penso che sia soltanto una forma di curiosità estrema la mia, nel senso che ho sempre ascoltato di tutto e ciò che è fatto, ma bene, ovviamente. Ludovico, non ho preferenze, non ho generi, certo, preferenziali. Ma vedi, al giorno d'oggi i ragazzi non sono così. Non ascoltano, non hanno la pazienza di sapere ascoltare. Questo è qui la grande uno dei grossi difetti. Me. Non hanno la pazienza di sapere ascoltare. Sì, sì, sì. Una delle cose per cui mi piace molto lavorare con i cori, ad esempio, dei bambini e dei ragazzi, è proprio questo, perché per cantare in un coro la prima cosa che devi sapere fare è imparare ad ascoltare. Esattamente. Altrimenti vai fuori. E quindi è anche questa, secondo me, soprattutto in un tempo come questo in cui il fenomeno è quello della disattenzione, e riuscire a concentrarsi su qualcosa, stare attenti, a cogliere le sfumature, bravo, secondo me è la grande sfida educativa di questi tempi. E quindi dai, io sono soddisfatto di mettere il mio tempo a disposizione di questi ragazzi e anche insegnare a loro, fargli vedere come si lavora, certo, che è un lavoro minuzioso, è un lavoro fatto sui dettagli, non è cosa da poco in questo periodo. Ludovico, ti chiedo un'ultima cosa e poi ti lascio andare. Tu ti ricordi di Giorgia Gozzi? Sì. E sai che è ospite nostra questa sera e subito dopo la tua telefonata parleremo un attimo con lei. Tu avevi fatto un commento che sono andato un po' a pescarlo il giorno dopo che ha vinto il Volavoce questa volta, sì, con gli inediti. Tu avevi scritto con le cover interpretazione pulita, precisa ma leggera e ironica come deve essere un brano così. Brava Giorgia. Wow. Sì. È vero, avevo scritto questo perché io non riesco mai a tenermi dentro quello che penso nel bene e nel male, e quindi no, se l'ho scritto perché lo pensavo veramente. Certo. Quello che mi è piaciuto di lei era il non prendersi troppo sul serio, da un lato, ma dall'altro lato anche fare comunque le cose con serietà. Si confonde spesso, secondo me, la semplicità, il modo di essere leggeri con la sciatteria, sono due cose diverse. Si può essere leggeri, ironici, fare le cose fatte comunque bene, fare le cose comunque con serietà. Secondo me lei sta lavorando bene da questo punto di vista, ecco. Certo, sì, puoi rispondere. Grazie mille. Niente, figurati. Grazie, davvero. Anche niente, perché niente. Ha fatto veramente una scelta coraggiosa. Lodo, sì, noi ti ringraziamo, andiamo avanti e proprio a chiusura della tua telefonata cominceremo con Giorgia, ok? Molto bene. Un salutone. Ciao, Lodo. Allora, Giorgia, siamo arrivati a te. Sì. Allora, tu sai che... per me è un piacere per tutti avervi qui, ma tu sai che ci tenevo tantissimo ad averti qui in studio per come hai cantato, per la tua interpretazione, per il coraggio che hai avuto a cantare una canzone che magari presentare a un concorso non è così semplice. Però, come diceva prima anche Riccardo, bisogna avere anche coraggio, bisogna provare. Tu l'hai fatto e hai ottenuto un risultato importante perché sei arrivata prima nelle cover al Volavoce Festival, l'ottava edizione. Sì, per me è stato davvero un onore intanto partecipare comunque al Volavoce Festival, è stato davvero molto molto importante e sono davvero davvero davvero contenta, grazie mille. Diciamo anche quanti anni hai, Giorgia? Sì, allora ho 21 anni e vengo da Sona, un piccolo paese nella provincia di Verona. E inizio a studiare canto da piccolina, da quando ho 6 anni. Diciamo che vengo da una famiglia di musicisti, per cui sono sempre stata immersa nel mondo della musica e sono nata proprio con questa passione dentro. Anche il papà segue un po' il jazz, no? Sì, tutti e due. Jazz, certo, sì. Tutti e due. E diciamo che il mio sogno più grande è quello di comunque fare della mia passione il mio più grande della mia più grande passione, scusami, il mio lavoro. Per cui riuscire a coronare questo sogno sarebbe per me davvero un risultato importante. Sarà contenta la mamma, se la Caterina, se Caterina si chiama, sì, la mamma, sì. No, sapere questo. Te pensa che io non lo sapevo, ma la sera che hai vinto il concorso ce l'avevo alle spalle. Io ero lì in giuria, a un certo punto ha detto vincitrice Giorgia Gozzi. Ho sentito una persona che ha fatto un salto e ha fatto un urlo, mi giro. Chissà chi è. E lì ho capito che forse ha detto questa è la mamma di Giorgia. Esatto, sì, lei. Poco di parte ovviamente. Allora, Giorgia, prima di farti partire la tua base, perché anche Giorgia canterà dal vivo, tu hai fatto due esperienze importanti, sempre giovanissima. Sì. Me ne vuoi parlare? Allora, io appunto da piccolina inizio a studiare canto e entro a far parte del coro delle Voci Bianche dell'Arena di Verona, col quale appunto facciamo per 8 anni consecutivi 8 opere in arena. È stata un'esperienza davvero che mi ha formata tanto e mi ha fatto comunque rompere quel ghiaccio che adesso magari lo sento meno grazie a quell'esperienza che ho fatto, perché comunque esibirsi a 6 anni sul palco dell'Arena di Verona è... penso bene, per quello te l'ho chiesto. È importante, sì. Per me mi ha dato tanto. E poi sempre con il coro ho fatto parte della tournée di Elisa e l'abbiamo seguita al Palazzo Geox qui a Padova. E poi siamo andati anche sempre in Arena di Verona con i We Music Award e abbiamo fatto una serata con lei. Anche questa è un'esperienza che ricorderò ovviamente per tutta la vita e mi ha dato parecchio. Anche perché Elisa in questo periodo veramente sta musicalmente esplodendo. È un qualche anno che veramente fa delle canzoni che sono straordinarie. Io non ero una cantante che amavo tantissimo all'inizio, però in questi ultimi anni veramente ascoltarla è solo un piacere. È una musicista, una cantante, è veramente un artista. Senti, a 19 anni poi anche lì fai un'esperienza bella e importante, entri nel mondo delle cornamuse. Ah sì, è vero. E mi hanno chiamato Verona Swing e mi hanno proposto questo progetto e ho cantato con delle cornamuse sempre al Palazzo della Gran Guardia di Verona e è stato bellissimo, sì. Davvero. Anche perché comunque io personalmente non avevo mai sentito questo contrasto tra voce comunque e cornamuse, no? Per cui l'unione, diciamo che veramente mi è piaciuto parecchio. Anche cantare con loro è stato comunque un onore, davvero. Gli Urban Pipe, si esatto, chiama così, no? Sì, ecco, sì, sì. Allora, passiamo alla musica, sì. Giorgia. Allora, tu cosa hai deciso di farci ascoltare? Allora, io vi faccio ascoltare la canzone con la quale ho vinto il concorso, che si chiama Whatever Lola Wants di Sarah Vaughan. Ecco, e tra l'altro io non sono bravissimo in inglese, lo dico, infatti vedi che ti lascio dire il titolo a te, però sono andato a vedermi la traduzione del testo, no? Lei inizia con ciò che Lola desidera, Lola ottiene. Fa parte del tuo carattere, per quello hai scelto questa canzone, è la verità. Diciamo che in gran parte sì, dai. Vai, con Giorgia. Un po' di fatica però sì. Vai Giorgia, faccio partire la base. Ok, grazie. Whatever Lola wants, Lola gets, and little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regret. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and your soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can win. Exception to the rule, I am resistible, you fool. Give in. Give in, you'll never win. I always gave what I aim for. And your heart and your soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gave. Take off your coat, don't you know you can, you can. You're not exception to the rule. I am resistible, you're fool. Giving, giving, you'll never win. Giving up, giving, giving, you'll never win. Che devo dire, Susanna? Aiutami, allora, perché io sono incantato. Posso dire una cosa, no? Io adoro questa ragazza qua, perché l'ho conosciuta forse l'anno scorso, non so adesso di preciso. L'ho vista, ero in giuria in un concorso alla Grande Mela, esatto, Verona, sì. E l'ho conosciuta lì. E ti dico la verità, Gil, che appena l'ho sentita aprire bocca, io e un altro giudice, un direttore d'orchestra di Verona, ci siamo guardati e abbiamo detto: ma questa qui, da dove cazzolina viene fuori? Dove è stata fino adesso? E veramente lì mi sono proprio innamorata di lei, perché lei ha una voce veramente, mi fa venire i brividi ogni volta che la sento, dico la verità. Poi lei sa quanto bene vi voglio, perché è una ragazza di una umiltà unica, di una gentilezza, di un'educazione, veramente una donna da sposare. Bah, dillo due volte, dai, non si sa mai. Chi lo sa, adesso in radio, sai. Grazie, comunque, grazie complimenti, davvero. Complimenti, Giorgia, veramente sei sempre più brava. Grazie mille, io grazie, ti adoro. Grazie. Si capisce perché ha vinto il Bolo Voce, no? Certo. Bastato sentire questa voce legata a questa musica. Oltretutto, comunque, mi ricordavo, no, che da dove viene lei, c'è stato un grande tenore che è Giuseppe Lugo, mm-hmm. Che è nato proprio a Sona che dopo la guerra si è trasferito in Belgio, però ha continuato a cantare, qui in Italia ha cantato diverse cose, diverse opere di Puccini e quant'altro, quindi viene da una buona, da una buona, come si dice da noi, da una buona piana, no? Certo, certo. Diciamo, certo. Perciò chi meglio di Giorgia poteva interpretare un pezzo così. Io ce l'ho a scuola ormai da 2-3 lezioni, visto, esatto, che anche lei ha vinto comunque un bonus studio da usufruire da noi, ed è forse anche merito di Susanna che l'ha invitata e spinta a fare il Buona Voce, sì, Festival. Sì. Perciò, per fortuna, sì. Sì, è un concorso che in questi anni si è parecchio sviluppato e ci arrivano già nelle selezioni delle voci che sono già molto interessanti. Già molto interessanti. E dove che una giuria, anche come quest'anno tu c'eri, sì. Susanna, c'era il pomeriggio, sì, se non mi sbaglio. E lei invece ha cantato di sera, anche lì eravate in 11-12, una roba simile, decreta sempre in maniera ottimale le vincitrici o i vincitori di questo festival. Perciò è solo da apprezzare questa voce che va migliorata dove manca ancora qualcosina. Tutto però ha delle grosse qualità. Pensa a te che va migliorata adesso com'è, non so quando sarà migliorata. Appunto, cosa sarà? Ne parlavamo proprio questa mattina con Giorgia a lezione. 30 secondi posso spenderli per Marielle, scusami. Questi nomi sono proprio un disastro per me. Allora, 30 secondi li spendo anche per te, volevi intervenire prima, però purtroppo non ce l'ho fatta. E allora, tantissimi complimenti perché il tuo inedito, con i complimenti anche del... Cos'è che ti ho detto l'altro giorno, Dino? Piccolo grande Mozart. Di a tuo figlio che è un piccolo grande Mozart. Ecco, tanti complimenti perché il tuo inedito, di solito l'inedito, quando viene ascoltato, non è che ti entra subito, no? Lo devi riascoltare, dire ma questo qua no. Dopo la quarta, quinta, anche decima volta, dice beh, allora adesso comincia un po' a piacermi. Il tuo io l'ho ascoltato alla finale del Vola Voce, mi sono innamorata subito, poi l'ho riascoltato l'altra sera al Vota alle Voci, è veramente bellissimo e poi ho tanto orecchiabile, proprio una gran bella canzone, complimenti mille, a tutte e due di cuore. No, è una canzone che può passare tranquillamente in radio, ecco, tu l'hai detta prima. Certamente sì. E non sfigurerebbe. Certamente sì, anche perché non sarebbe né conveniente nemmeno per me mettere una canzone che proprio non ha nulla a che vedere con un buon ascolto. Ecco, invece la canzone di Maria Elena e Riccardo e Lodovico, sicuramente è una canzone che passa e merita. E ci comunque fa piacere. Avremo modo poi di riparlarne perché più avanti poi. Anche con Dino ci ritroveremo e quindi magari rifaremo ad ascoltare ancora, chissà mai che nel frattempo avrete creato qualcos'altro, chi è che lo sa. Mary ciao Gilles. Ciao Mary. Mary, intanto diciamo età, da dove vieni Mary? Sì, ho 17 anni e vengo da Casale sul Sile in provincia di Treviso. Posso raccontare io qualcosa un po' di te, Mary? Allora, io ho la fortuna di, tramite Sandro Sartori, Matteo Tisato, Dino Vighesso, di partecipare a varie edizioni di questi concorsi, appunto in giuria. E Mary, a parte che si sente a mano, mi rendo conto di questi ragazzi quanto migliorano, sentivo cantare Mary. E ogni volta che scendeva dal palco gli dicevo sempre: Mary, cioè hai una voce che è bellissima, però ti manca ancora quel qualcosa per scalare quei primi posti, che poi è importante i primi posti, però non è che sia la cosa fondamentale poi per andare avanti con la mia carriera. Però alla fin fine dicevo sempre: Mary, ti manca sempre quel qualcosa, arriverà il giorno, io sono sicuro, che ti sentiremo cantare e diremo: questa sera merita un grande voto. Ed è successo al Vota le Voci. Che è successo? In realtà non lo so. Cioè, ero più sicura di me. Non so, mi ero svegliata pronta, volevo proprio dimostrare di essere pronta o far vedere che cosa ho fatto in tutto questo tempo insieme a Dino, e quindi niente. Certo, e guarda che ti assicuro, perché le ultime due edizioni, sia del Vola Voce che del Vota le Voci, sono state due edizioni abbastanza difficili per i giudici, perché io non ho visto poi i voti complessivi, però tra di noi un attimo si parla. Penso che siete arrivati tutti lì alla distanza di pochissimo, quindi... Se hai raccolto questo risultato, vuol dire che quella sera hai proprio cantato bene. Grazie mille. Ecco. Grazie. Allora, parliamo un po' di te prima di fare ascoltare la tua canzone. Tu inizi un po' appassionati di musica a 13 anni circa, no? Da quello che mi dicevi. Diciamo che ho sempre amato cantare, però proprio questo timore che ho io di cantare davanti a un pubblico o comunque a persone che non conosco. Ecco, mi ha frenato, ho iniziato a cantare un po' tardi, cioè se avessi potuto avrei iniziato prima. E niente, tramite la mia professoressa delle medie ho iniziato a prendere lezioni di canto. Ho avuto un insegnante per qualche anno e poi ho incontrato Dino al concorso Vola Voce. Sono arrivata terza, sì. E Dino mi ha dato la borsa di studio, la possibilità di fare quindi le lezioni da lui, e da lì niente, ho iniziato ad andare da lui. Certo. E quindi cosa ti ha portato? Migliorare dove? Cioè, dal punto di vista tecnico, sì, ma anche personale, perché di testa. Perché lui involontariamente ti dà una sicurezza che io devo ancora maturare, lo ammetto, però ho fatto dei passi da gigante e il merito è suo. Di entrambi. Ok, però... Sì. Perché se dall'altra parte non c'è nessuno, tu puoi battere, ma dall'altra parte, certo, non viene recepito. Non ti apre, no? Nessuno. È sempre quello che dico io. Il feeling artistico deve nascere dall'insegnante a me. Se non nasce, è meglio salutarci. Certo. Tutto là. Certo. Quindi dopo di sé viene il crescendo, viene di sé, non c'è certo, problema. Certo, quindi è importante anche la predisposizione ad ascoltare quello, sì, che... quello che ho detto prima, no? E poi, torno a dire, avere delle qualità. Tutti i ragazzi che sono qui stasera hanno delle grosse qualità. Perciò Chiara, che ha già 11 anni, l'ho sentita cantare prima, ha una voce d'usignolo. Sì, è veramente brava, veramente. E è una qualità vocale molto interessante, certo, che Susanna saprà sicuramente coltivare al meglio e portarla a sbocciare. E gli altri sono un po' più grandi, dopo sentiremo anche Manuel, sentiremo lei cantare adesso. È una bella sorpresa, Manuel. Hanno tutti delle qualità eccezionali, no? E chi con pregi, chi con difetti, però con lo studio si va a sistemare tutto. Non è un problema, l'importante è saper ascoltare. Certo. Saper ascoltare, tutto là. Certo. Mary, ti chiedo anche una cosa, sì, quindi il palco, tu vai sul palco e avevi, spero di dire avevi, delle difficoltà, sì, ad affrontare, chissà che adesso questo sia stato un passo, sì, in avanti. Mi ha aiutato molto. Alla fine il palco cosa ti dà? Cioè partecipare a questi concorsi è importante secondo, sì, te? Sì, tanto. E perché? A me personalmente aiuta proprio per questo timore che ho, ma penso sia importante perché quando tu vai sopra il palco, inizi a cantare, no? Tu hai qualcosa da esprimere, hai qualcosa da dare, ne senti la necessità, e il pubblico che ti guarda ti esprime delle emozioni che poi ti caricano, e quella carica è indescrivibile, solo che finalmente l'ho capito e ora so come sfruttarlo. Certo, certo, sarà anche perché in giuria, sai, te l'avevo già detto, noi non regaliamo niente, no, niente, a nessuno, cioè non è che abbiamo amicizie, diamo il voto per amicizie, diamo lì proprio ci si stacca, sì, completamente, si ascolta la canzone e si dà un voto, professionalità, obiettivo, sì, sì. Deve esserci così, assolutamente. Sì. Allora Mary, io direi, sì, che parlare un attimo della tua canzone che presenti questa sera, che tu canterai dal vivo. Sì. Allora dimmi di questa canzone, sì, come si intitola e come mai hai scelto questa canzone. Si intitola Ashes ed è di Céline Dion, un pezzo di Céline Dion. L'ho scelta perché proprio il fatto di questo timore che ho, quindi tirare fuori l'energia, e questa canzone parla della bellezza, no? Della bellezza che nasce dalle ceneri e quindi risorgere. Ed è un po' come sto facendo io, sto cercando di uscire dal mio guscio che mi sono creata, quindi per questo motivo. Allora noi adesso ti lasciamo cantare. Grazie. Ok? La base parte e la tua voce anche. Come out of ma complimentoni, veramente. Grazie mille. E cantano da seduti, che è più difficile. No? È freddi. È tremenda. Ecco, cioè, è qui, hanno è qui tutti, la bravura. Hanno tutti delle grandi qualità vocali, no? E qui si sentono. Hanno oltretutto all'interno della propria voce, hanno quella calamita che ti porta dove vogliono loro. Certo, certo. Perché Giorgia, Maria Elena, è la stessa Chiara, Mary, e dopo la stessa cosa capiterà anche a Manuel dopo, hanno questa facilità di portarti dove vogliono loro. Certo. E questa è una dote non da poco. Certo, certo. E, beh, io... mi sembra di averlo detto anche prima, no? Per me è emozionante. E ascoltarvi, ognuno di voi mi viene un po', come si dice, la pelle d'oca, no? Perché noi non so se riusciamo a trasmettervi l'emozione che abbiamo anche noi dentro, ognuno di noi, perché è quello poi l'obiettivo, no? La musica deve emozionare. Questi ragazzi stanno cantando, ve lo ricordo, dal vivo, e non è di poca cosa. L'unica, come ho detto prima, è Maria Elena, ma c'erano i suoi motivi, non perché da meno, ma perché proprio per farvi ascoltare l'essenza di questa canzone, di tutto ciò che gli è stato colorato attorno, diciamo così, alla sua voce. Allora, siamo in orario. Manuel, vieni perché... Allora, Manuel per me è stata una bella novità, perché Manuel fa parte appunto di quelle belle voci che ogni tanto, tac, improvvisamente compaiono e ti lasciano un po' il segno, no? E io ho avuto modo di avere un altro amico, Otais, un altro emittente che è stato mio ospite a Studio Live 91, e avevo detto: mi raccomando, visto che sei amico, di a Manuel che non si fermi a fare musica, perché mi diceva appunto che c'è stato un periodo che eri un po' così, un po' indeciso, vado avanti, non vado avanti. Ho detto: mi raccomando, perché Manuel ha una bella voce. E poi poco tempo dopo mi ha detto: guarda che sta andando a scuola da Dino Vighesso, e lì ho capito che ormai hai preso una strada. Ciao Manuel, benvenuto. Buonasera a tutti, sono Manuel, ho 22 anni e vivo Sandona di Piave in provincia di Venezia. E sì, è vero, ho conosciuto il concorso Vota le Voci, che è stato il mio primo concorso di sempre. Sono stato praticamente obbligato ad essermi iscritto, ecco. Hot Ice più una mia cara amica che saluto mi hanno detto: se non ti iscrivi, tante minacce, insomma. E quindi ho accettato, non avevo molta scelta, ecco. E grazie a questa esperienza che ho fatto ho conosciuto anche il mio maestro Dino Vighesso, che mi ha già insegnato moltissimo in pochi mesi, e sono soltanto fortunato di aver avuto queste conoscenze, ecco. Certo, certo, perché sicuramente anche Dino, se ti ha preso poi alla fin fine in consegna, vuol dire che sicuramente... Sempre. Cosa dici, Dino? A lui ha grosse qualità, quindi... Dove sono le qualità di Manuel? Di grossa anche la pancia. Quindi ce l'abbiamo un po' in comune. Scusa un attimo, Dino, tra l'altro intanto mi hai fatto amare un cantante nuovo che conoscevo marginalmente, che questa notte al lavoro ho l'ascoltato tantissimo. Chi che è Sam Smith, sì, che poi l'ho visto con due volti diversi, perché anche lui aveva un po' la pancia, però adesso l'ho visto completamente diverso. Comunque ha una voce eccezionale, che è molto simile a tua. Vai, Dino. Lui ha quella magia nella voce, no? Che ti porta dove vuole. Anche lui ha queste grosse qualità, oltre ad avere una voce molto duttile per quanto riguarda le rifiniture che si può fare in una canzone. Lui tende a farlo un po' dappertutto, e stiamo un po' rivedendo la cosa. Manuel però ha delle grosse qualità, è un talento, adesso lo sentirete cantare anche lui dal vivo, è veramente un grosso talento. Sì, Manuel, allora anche per te ti faccio questa domanda, perché tu non è che canti da tantissimo, no. Però alla fin fine ti ho visto sicuro nel palco, come fosse che tu cantassi alla fin fine da molto tempo. Io ricordo ancora la prima volta che ho cantato, a 4 anni, verso la mezzanotte, mia mamma dall'altra stanza, taci. E quello è stato il momento in cui ho realizzato che avrei voluto cantare sempre. Ho cantato per i fatti miei, diciamo, sotto la doccia, come si suol dire. Ed è lì che ho sempre continuato ad imparare a cantare brani differenti, generi differenti. È sempre stata la mia passione, no? E, però non ho mai avuto quasi il coraggio di mettermi nelle mani di un maestro. Forse per miei problemi di fiducia, non lo so. Certo. Però per gioco, via minacce, mi sono consegnato a Dino Vighesso, che mi ha già cominciato a martellare un poco, a dirmi: guarda che se fai così così è meglio. Quindi sono 2 mesi che studio canto, però canto un po' da sempre. Certo, e anche per te vale la stessa cosa che dicevo prima a me. Mm-hmm. Lei ha vinto la sua edizione dei cover, però sì, neanche tu penso sei arrivato molto lontano. Io ho avuto la fortuna di posizionarmi secondo, giusto dopo Mary, allo stesso concorso, cantando la canzone che vi canterò dopo, e partecipando al Vola Voce invece sono arrivato terzo con Cambiare di Alex Baroni, che penso un po' tutti conoscano. Certo. E, sì, sono state davvero esperienze che mi hanno cambiato, mi hanno insegnato ad essere più aperto mentalmente sia verso la musica che verso i consigli, che non è da poco. Certo. E quindi sì. E a proposito delle Vota le Voci, ne approfitto per salutare Matteo Tisato e Sandro Sartori, che probabilmente anche loro a dicembre, gennaio saranno anche loro ospiti, e parleremo anche del loro concorso musicale. E, senti Manuel, allora a questo punto direi di fare ascoltare la tua voce, microfono? Se mi alzeresti per favore la base, un po' il genere. Sì, ok. In generale. E quindi vorremmo che tu ci dicessi come mai hai scelto questa canzone. Questa canzone descrive un momento abbastanza Perché ho ascoltato il testo. Della mia vita in cui ho sofferto di vari episodi. Sì. Ed è stato il momento in cui mi sono arreso un po' all'aiuto degli altri, che non ho mai voluto sin a poco fa. E quello è stato il momento in cui, come dice la canzone, metaforicamente mi sono inginocchiato a pregare e mi sono arreso alla potenza di Dio, che mi ha aiutato ad andare avanti, spingere contro tutte le avversità e vincere un po' quelle che sono le mie paure, tutte le mie insicurezze. E questa canzone mi rispecchia molto, per questo ho scelto di cantarla anche al concorso. Certo, in effetti è quello che parlo anche a titolo personale, ma penso anche tanti altri, che è quello che tu hai trasmesso, perché l'hai interpretata con molta, molta intensità questa canzone. Sono felice che ti abbia colpito. Certo, perché poi sono andato a leggermi la traduzione, appunto, mm-hmm. e ho visto il testo molto, molto bello, perché è difficile mm-hmm. trovare anche dei testi fatti a modo, e volevo appunto, ho detto questa è una domanda che gli faccio, perché rispecchia un po' quello che lui ha interpretato nel palco. Sì. Allora, sei pronto a cantare, Manuel? No. Ormai ci sei, dobbiamo andare. Vai, vai. Foolish, I've made bad decisions. I blocked out the news to my back home religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. But I made it this far on my own. And lately that shit and be getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart, fear in my bones. I just don't know what to say. Maybe I'll pray. Pray. Maybe I'll pray. I've never ever believed in, you know, so I'm gonna pray. You won't find me at church, no. Reading the Bible, no. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't feel for winner, I feel for the winner. When I try to explain, the words right away. That's why I am stood here today. Maybe I'll pray, pray, pray. Maybe I'll pray. I pray for a gleamer of hope. Maybe I'll pray. I'm gonna, won't you call me? Can we have a one-on-one? Let's talk about freedom. Everyone praise in the end. Everyone praise in the end. Adesso dopo 10 secondi, certo. Ancora, io non avevo la cuffia, però sinceramente sentirti cantare così, una cosa, guarda, semplicemente meraviglioso. Grazie. Dino, ti lascio dire a te qualcosa. Non saprei. No, io l'ho ascoltato. Hai lasciato senza parole il maestro. Io l'ho ascoltato e sono sempre, non lo so, dovrebbero veramente, sto pensando ai programmi televisivi e tutte queste cose qui, no? Che io penso sempre, ma perché fanno cantare persone che non... che con la musica non c'entra niente, non so, con la vocalità che hanno questi, se li mettono in tasca veramente tutti. Certo. Questo la dice lunga sulla musica italiana al giorno d'oggi, che se questi sono all'estero se li mangiano. Certo. Starebbero bene di là dell'Oceano Atlantico. Allora farebbero veramente qualcosa. Queste vocalità qui in Italia non le riconoscono. Perché molto probabilmente gli autori non scrivono canzoni per queste grandi voci. Allora, chi è il mediocre? Sono i compositori o ecco, solo chi sceglie ecco. queste voci? Mm. Chi non sceglie queste voci, questo voglio dire. Certo. Perché le voci in Italia le abbiamo. E abbiamo anche noi voci come Beyoncé, Celine Dion, e non so, e chi più le ha più le metta. Però sono nascoste all'interno della, come nella mia accademia, nelle altre scuole d'Italia, e non le fanno emergere. Certo, certo. Ed è un peccato, perché abbiamo sentito dalla più piccola, che ha 11 anni, che quindi deve crescere, ma ha una grossa qualità, ad altre voci come Mary, Giorgia, Maria Elena, Manuel stesso, hanno delle vocalità che non hanno paura di nessuno. Certo. Posso essere solo d'accordo con te, Dino, ed è per questo che questo programma, nel suo piccolo, quello che può fare lo mette a disposizione prima di tutto di tanto questi... grazie che ci hai invitato, perché ci mancherebbe. È stata un'opportunità per me, per la Susanna, di far sentire, certo, alcuni nostri allievi, Riccardo per far sentire l'inedito assieme a Maria Elena, e saremo qui sicuramente con altri pezzi. Certo, certo, ma anche, e anche con loro, altri ragazzi. Altri ragazzi, ma anche loro, ci sarà una continuità, la cosa non finisce qua ragazzi. Sì, fai pure il numero. Non finirà qua la cosa ragazzi, perché vi auguro di cuore presto di fare anche voi, come è stato per Maria Elena, il vostro inedito, e quindi di poterlo fare ascoltare qui in diretta, ma poi anche di trasmetterlo poi durante le ore del giorno assieme a tanti altri cantanti. Noi Radio Cooperativa è un'emittente libera, non ha condizionamenti, nessuno gli impone della musica, ed è il bello di questa emittente. Siamo liberi di trasmettere la musica che ci piace, compresa la vostra. Allora, siamo in chiusura ragazzi, io vorrei ad ognuno di voi farvi dire quello che volete sulla musica, o se dovete ringraziare qualcuno particolare che vi lega alla musica. C'è? Sì. Anzi, prima facciamo una cosa. Allora, siccome c'è anche un'altra bella voce, altra allieva di Dino, ma non è che siamo andati a scegliere, è una fatalità. No, è la fatalità, concorso al voto alle voci abbiamo vinto tutto. Ecco, quindi siete arrivati in pratica in tutte le prime posizioni. Sì. E c'era una ragazza, una cantante che si chiama Veronica Tatania. E che comunque sarà presente in una prossima puntata sicuramente, però ci tenevo a fare un saluto e farla intervenire in diretta e farla partecipare un po' così, diciamo, virtualmente a questo programma. Veronica, ci sei? Sì, ciao a tutti. Ciao Veronica. Ciao. Veronica è anche lei una grande voce, una grande dote vocale, ti emoziona sempre qualsiasi cosa canta. Al Voto alle Voci è arrivata seconda e terza, perché anche lei aveva un bel inedito ed è arrivata seconda e terza dietro Manuel, ma io penso pochissimi centesimi, non numeri grossi. Quindi guarda, Veronica è sempre una cosa bella, tu chiudi gli occhi quando lei canta e ti trasporti. Veronica, tra l'altro avrò bisogno un po' di questa tua canzone, perché andrà, come la Maria Elena, andrà un po' in rotazione, quindi ci sentiremo, ci metteremo d'accordo. Certo, okay? Volentieri. E poi ovviamente verrai qui in studio molto presto, dicembre, gennaio, adesso vediamo, ma faremo un'altra serata dedicata al Voto alle Voci, e di cui con Sandro vedremo chi può venire qui in studio, ma sicuramente farà parte della serata Veronica Tatania. Grazie. Tu hai sentito la trasmissione questa sera? Sì, l'ho seguita tutta dall'inizio e volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi, soprattutto a, mi sembra si chiami Giorgia, la ragazza più piccola. No, che... Chiara. Chiara, sì. Scusate. E veramente a 11 anni, complimenti. Grazie mille. E anche complimenti all'insegnante che le sta dietro di coltivarla al massimo. Grazie mille anche a te, tantissimi complimenti. Grazie, e anche i complimenti a tutti i miei compagni di viaggio del Voto alle Voci, ovviamente, che è sempre un piacere ascoltarli tutti quanti. Certo, comunque sarà un piacere averti qui e condividere, che per me e Veronica questa sera è la prima trasmissione, quindi anche a livello di gestione per me era la prima volta, quindi ho cercato di fare il meglio, però ti assicuro che la ripeterò nel tempo, perché per me questa sera, come prima volta, è stata un'esperienza straordinaria con questi ragazzi. Tutti. Sono contenta. Grazie. Complimenti a tutti, veramente. Grazie. Veronica, ci sentiamo presto e ci mettiamo d'accordo, ok? Va bene. Ciao a tutti. Ciao, Veronica. Un abbraccio. Allora, ragazzi, io sto rubando un po' qualche minuto al collega che viene dopo, casomai glielo ritorno in una prossima occasione. Come vi dicevo prima, vorrei ognuno di voi darvi la possibilità di dire quello che volete riguardo alla musica. Un saluto a qualcuno che ci tenete in particolar modo. Quello che volete, amate la musica, ditele una parola. Riccardo. Parto io? Sì. Beh, allora, intanto io volevo ringraziare Ludovico Saccolla, abbiamo sentito prima al telefono, perché per un giovane compositore come me, insomma, è un onore lavorare a fianco ad una persona così, una persona umile che dà tutto se stesso per far sì che il lavoro renda, insomma. E volevo ringraziare Maria Elena per avermi aiutato, insomma, a portare in giro questa bella canzone. Volevo ringraziare te, Gilles, per l'invito soprattutto. Grazie mille. Grazie. E un altro ringraziamento volevo farlo comunque a mio papà e comunque a tutta la mia famiglia, mio papà e mia mamma, perché senza la loro spinta, diciamo, io non avrei mai, forse non avrei mai, non sarei qui, forse non avrei mai raggiunto tutti gli obiettivi che ho raggiunto, non avrei mai suonato il pianoforte, non avrei mai avuto occasione di conoscere questo grande contenitore che ti riempie di soddisfazioni chiamato musica. Grazie Riccardo. Maria Elena. Allora, ti ringrazio tanto per averci ospitato, ringrazio Riccardo per tutto l'aiuto che mi ha dato con la canzone e che mi dà sempre, Dino, il mio maestro, e la mia famiglia, in particolare mia mamma che è in assoluto la mia fan numero uno, senza di lei non andrei da nessuna parte perché lei mi accompagna sempre, mi dà la carica giusta. I miei amici, perché gli amici sono importanti, ti danno proprio lo spirito, ti dicono dai, vai, vinci, in bocca al lupo, ed è la carica che ti fa poi arrivare sul palco pronta per mangiare il pubblico con gli occhi, insomma, come dico io. E voglio dire a tutti, a me compresa, che io mi porto sempre dentro questa frase: mai smettere di sognare. Bravissima. Il nostro lavoro, diciamo, è difficile, non è semplice arrivare dove vogliamo arrivare, però secondo me bisogna crederci, perché se ci credi un passetto alla volta ci arrivi, ti dà tante soddisfazioni, quindi lo dico a tutti, ma me lo ripeto sempre anch'io, mai smettere di sognare. Bellissimo. Manuel, a te. Condivido tutto quello che hai detto, Maria Elena. Io purtroppo però non ho una famiglia da ringraziare, perché non sono stati molto di supporto, ecco, rispetto a quello che è il mio viaggio attraverso la musica. Però ringrazio mio grande amico Fabrizio, che mi ha permesso di essere qui oggi e mi sta permettendo ancora di studiare. Ringrazio Arianna di avermi obbligato a iscrivermi al mio primo concorso. Dino per insegnarmi ed essere molto paziente. Spero che continui ancora tanto, è il mio sogno da sempre. Io ti auguro di trovare presto anche un supporto familiare, però bene o male penso che intorno a te hai trovato qualcosa che sicuramente ti sta circondando, Manuel. La fortuna, per fortuna, sta girando dalla mia parte per una volta e ho conosciuto davvero delle persone speciali, quindi sì, grazie. Grazie a te, Manuel. Mary, siamo qui? Sì. Vorrei ringraziare sì te, Gilles, grazie di averci ospitato qui. È una bellissima opportunità anche per me. Grazie. Sì. È stato molto interessante e divertente. E la mia famiglia, perché mi supporta e non bisogna darlo per scontato come appunto per altre persone. E gli amici, ovviamente. Come ha detto Maria Elena, ti danno una carica, sì, che non è da poco. Quindi grazie a te, Dino, per avermi dato tanto e perché mi stai dando ancora. E niente. È bellissima, io stavo aspettando il niente. È ovvio. Ecco, comunque, ecco, io volevo dirvi anche questo, poi passo a Chiara. Il bello di questa cosa, che io l'ho fortemente voluta, è il farvi condividere anche questi momenti, mm-hmm. perché oltre al palco c'è il momento della condivisione. È bella l'intervista singola, è bello ascoltare il gruppo, ma è bello avere l'opportunità di far condividere la propria passione assieme agli altri, tra di voi, ma anche alla fin fine trasmettere questa passione a chi vi ascolta. E una cosa, io vorrei ringraziare una persona che ho conosciuto proprio in questo percorso del Botta le Voci, che è Manuel. Lui mi dà una carica che, non lo so, io grazie a lui sono cambiata. Certo. E voglio che tu lo sappia, per cui ti ringrazio. Sei un buon amico, davvero. Manuel deve essere una persona speciale. No. Fa la lacrima. Esatto. Chiara, sì. Ti abbiamo sentito... vedete che mi fa segno... Renzo, ti ridò tutti i minutaggi, ti ridò tutti. Chiara. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la mia maestra di canto, Susanna, che mi ha sempre portato mi ha portato molto avanti e mi ha insegnato molte cose, anche nel palco. Prima ero tutta, ero piccolina, ero anche, non sapevo esprimere, e adesso insieme a lei mi ha insegnato molte cose. Insieme anche ai miei genitori, che mia mamma e mio papà, soprattutto mio papà che mi porta dappertutto in giro, che anche mi danno stasera. Molto conforto, sì, mi danno molto conforto, e insomma l'amore che ho per la musica mi piace molto, è una passione che senza la passione non fa niente. Se una cosa ti piace devi farla, se non ti piace non devi farla. Grazie Chiara. Giorgia? Eccoci. Allora, io voglio ringraziare in primis, sì, anche i miei genitori, mia mamma e mio papà, che davvero loro sono una spalla molto importante per questo percorso, e ci tengo a ringraziare voi, grazie mille davvero per questa opportunità, e ci tengo a ringraziare una persona in particolare, che lui si chiama Raffaello Sapere, che mi commuovo, mi tremano le mani. Lui è stato il mio primo insegnante da piccolina, e lui è stato quella persona che è riuscito a tirare fuori lati del mio carattere, mio carattere molto, molto importanti. Sì. E niente. Mi batte forte il cuore. Ti facciamo respirare un attimo e riprendi lui tranquillamente. E poi voglio ringraziare davvero anche la mia insegnante di canto, che è Sara Fortini, con Cari Mensa, che studio da loro in Accademia di Verona, e contemporaneamente Dino Vighesso, che comunque mi sta dando davvero un aiuto particolare. E se posso dire una cosa, io sulla musica voglio dire soltanto che per me è stata la mia medicina, è stato quella cosa che mi ha fatto deviare da strade che purtroppo nessuno dovrebbe intraprendere, e grazie. Questo fa parte dell'emozione, della musica, è questo. Giorgia, grazie. Grazie a voi. Grazie. Susanna. Due parole anch'io. Allora, io volevo ringraziare i radioascoltatori, prima di tutto, per averci ascoltato pazientemente. Volevo ringraziare te, Gilles, per l'ospitalità, e dirti che veramente è stato un onore essere qua, una bellissima esperienza, un onore averti conosciuto, e maestro Vighesso, un grande amico, veramente tutti i ragazzi bravissimi, un in bocca al lupo per tutto quello che farete da adesso in poi, e niente, un bacio grande alla mia piccola Chiara che mi ha fatto emozionare anche me prima, veramente grazie di cuore e buona serata a tutti. Grazie Susanna. Dino, ti ho dato l'apertura e la ti chiusura. Do anche la chiusura. Mi sembra anche al doveroso. Al di là di ringraziare te, i ragazzi, i radioascoltatori, per questa grossa opportunità che ci stai dando, e ci vedremo sicuramente altre volte. Certamente sì. E io quello che mi raccomando ai ragazzi e a tutti, non solo a loro, è quello di ascoltare è molto importante, ascoltare, non pensare mai di essere arrivati piedi per terra, Le soddisfazioni vengono, come ha detto Maria Elena, giustamente bisogna crederci. Ed è vero, bisogna crederci. Prima o dopo il treno passa, anche secondo il mio punto di vista. E ricordiamoci una cosa. Noi dobbiamo cantare per il pubblico. Siamo degli artisti e se non abbiamo un pubblico davanti è difficile. Cantare per noi stessi non vuol dire niente. Cantare per il pubblico vuol dire avere la fortuna di avere persone, una, cento, centomila, che ci ascolta e che ci danno emozioni e noi dobbiamo riuscire ad arrivare nei loro cuori. Questo è importantissimo. Non pensare a noi stessi, ma pensare ad arrivare dall'altra parte. Bene, bene, grazie Dino. Ci grazie sentiremo anche in altre occasioni, anche per presentare la nuova edizione del Vola Voce Festival. Sì. Io ragazzi, cosa devo dirvi? Mi avete emozionato, è stato bellissimo stare con voi. Vi ringrazio di cuore, ma soprattutto ringrazio anche Radio Cooperativa che ha creduto in questo piccolo progetto che gli è stato presentato assieme al sottoscritto e ad Alberto Prisco, che appunto la trasmissione si chiama Rockwave perché è il nostro contenitore, poi c'è la Rockwave classifica che conduce Alberto Prisco al mercoledì e poi c'è il Rockwave Live che è questo di questa sera, Rockwave Live, io mi racconto che è il programma di questa sera. E poi ci sarà la parte dedicata alla musica italiana che andrà in onda alle 13 circa, penso, la settimana prossima. Ok? Grazie a tutti, vi ringrazio, è stato una cosa meravigliosa. Grazie a tutti ragazzi, grazie. Ciao a tutti.